Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Domani le convalide degli arresti per l'omicidio di Fontana Fredda, l'esecutore materiale in Veneto, dove non ha risposto agli inquirenti. Traffico illecito di rifiuti e criminalità organizzata. La finanza di Trieste confisca beni per 92 milioni in un'inchiesta dell'antimafia di Milano. Società verso il fallimento, ma le casse venivano drenate. Amministratore denunciato per bancarotta dalle fiamme gialle di Pordenone. Generali presenta Agora Innovation Hub, la sua sede definitiva sarà Palazzo Carciotti, sarà polo per le idee innovative e le start-up. Incontro a Udine sui progetti PNRR nei comuni, solo il 2% non è ancora iniziato, gli altri tutti conclusi, in collaudo o in corso di esecuzione. Giorgio Brandolin lascia dopo 3 mandati la guida del CONI del Friuli Venezia Giulia, lo sport regionale dice è in buona salute. 12:31 minuti, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli, uno in Veneto, l'altro a Pordenone. Roger Sciotta, accusato di omicidio premeditato, il padre Pren di concorso. Il più giovane autore materiale dell'assassinio di un connazionale albanese l'altra sera a Fontana Fredda dovrà spiegare anche come era entrato in possesso dell'arma che ha ucciso Vladimir Topiana. Dovrebbero essere calendarizzate domani le separate convalide dei fermi di Roger Sciotta e del padre Pren, arrestati per l'omicidio a Fontana Fredda di Vladimir Topiana, ucciso da 2 colpi di pistola fuori dal bar Sporting nella serata di domenica. Il primo, 34 anni, esecutore materiale del fatto, reo confesso, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non era nelle condizioni fisiche ed emotive per sostenere un interrogatorio, ha spiegato l'avvocato difensore, il trevigiano Guido Galletti. Sarà sentito nelle prossime ore sempre in Veneto, dove rinchiuso in carcere dopo la prima notte passata al comando dei carabinieri di Pordenone. L'udienza di convalida del GIP Biagetti sarà sempre a Treviso per competenza territoriale, essendo l'uomo italiano di origine albanese residente a Sacile stato fermato nell'abitazione del datore di lavoro a Orsago, poco fuori dai confini regionali. Il presunto omicida ha dichiarato di essere incensurato e senza carichi pendenti con la giustizia né in Italia né nel paese d'origine. Dovrà rispondere di omicidio premeditato, di porto abusivo d'armi e anche di ricettazione. I carabinieri stanno indagando su come Sciotta fosse entrato in possesso della beretta con cui ha sparato, risultata rubata a Ravenna mesi fa. Sarà invece a Pordenone nelle prossime 24 ore, presumibilmente domani mattina, l'udienza di convalida del fermo del padre Pren, accusato per ora di concorso in omicidio. 67 anni, avrebbe accompagnato il figlio nella spedizione contro Topiana, che nel corso della rissa, prima degli spari, gli aveva morso l'orecchio, suturato successivamente dai paramedici, senza bisogno di ricovero in ospedale. L'uomo è rinchiuso nel carcere pordenonese e difeso l'ufficio per il momento dall'avvocato Botosso, che non ha ancora avuto accesso agli atti. Si continua a indagare intanto su dinamiche e soprattutto movente. All'origine della lite sfociata nel sangue ci sarebbe una disputa familiare su un terreno posseduto in Albania. Pordenone, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Il processo Regeni, l'udienza a Roma in corte d'assise, a essere ascoltato il colonnello dei carabinieri Onofrio Panebianco, già alla guida del reparto anticrimine del ROS a Milano e ora a capo del centro operativo della DIA di Palermo. Era stato ascoltato già un anno fa. In quell'occasione era emerso che la casa al Cairo di Giulio Regeni era stata perquisita almeno 3 volte dagli apparati di sicurezza egiziani. Secondo Panebianco, le ispezioni vennero fatte anche quando Regeni era ancora in vita. Sequestri in corso in diverse città del paese per un traffico illecito di rifiuti con risvolti internazionali e forse legato ad ambienti della criminalità organizzata. Tutto è partito l'anno scorso da verifiche delle fiamme gialle di Trieste. L'ombra della camorra dietro ad un traffico illecito di rifiuti che ha portato al sequestro preventivo di 92 milioni di euro nei confronti di 6 società di capitali e di persone fisiche a Milano, Monza, Ferrara e Napoli. L'inchiesta è diretta dalla Procura Distrettuale di Milano e sequestri e confische sono eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste. Proprio le fiamme gialle di Trieste avevano ricevuto la prima segnalazione da parte di colleghi croati di ingenti bonifici verso l'estero provenienti dall'Italia. Le indagini hanno poi portato a individuare un'organizzazione criminale composta anche da soggetti attigui a clan camorristici dedita al traffico illecito di rifiuti e al riciclaggio dei proventi illeciti. Gli accertamenti hanno permesso di individuare una vasta frode ambientale e fiscale che garantiva l'approvvigionamento a due aziende di smaltimento rifiuti del nord Italia di materiale di scarto di provenienza illecita, per lo più rame e alluminio. Gli ingenti flussi di prodotti gestiti dall'organizzazione erano regolarizzati attraverso false fatturazioni emesse da imprese di comodo e i pagamenti venivano trasferiti su conti correnti esteri, anche cinesi. L'organizzazione si è avvalsa di oltre 51 società italiane tra cosiddette cartiere, che producevano cioè solo documentazione falsa, e filtro, che facevano da tramite con numerosi passaggi che coinvolgevano più stati, che nel periodo di indagine hanno emesso fatture per operazioni inesistenti nel settore del commercio all'ingrosso di metalli per oltre 320 milioni di euro a favore di imprenditori compiacenti localizzati nelle province di Milano e Ferrara. Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. La sua società versava in uno stato di grave insolvenza fin dal 2016, ma l'amministratura ha richiesto il fallimento solo 7 anni più tardi. Nel frattempo, oltre a non pagare le tasse, ha svuotato le casse aziendali. Si tratta di oltre 2,5 milioni di euro intascati da lui e da altri soci o versati a creditori non privilegiati. I finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno denunciato l'amministratore della società per bancarotta semplice per aver ritardato la richiesta di accesso alla procedura concorsuale, contribuendo in questo modo l'aggravamento del dissesto societario, e per bancarotta fraudolenta per aver effettuato pagamenti preferenziali ai creditori non privilegiati. Quanto agli omessi versamenti all'erario, si tratterebbe di 3,7 milioni euro. Presentato a Trieste il polo dell'innovazione dedicato all'intelligenza artificiale che Generali realizzerà e che troverà poi la sua sede definitiva a Palazzo Carciotti. Sarà un hub per start-up dedicate ad applicazioni in vari settori. Tra i presenti alla presentazione il CEO di Generali Donè e il ministro delle Infrastrutture Salvini. Humanize the future, umanizzare il futuro, è la scritta che compare su due grandi manifesti stesi all'ingresso di Palazzo Carciotti, che di fatto annunciano ciò che sorgerà dentro il maestoso palazzo neoclassico affacciato sul mare di Trieste, dove Assicurazioni Generali iniziarono la loro attività quasi 200 anni fa e dove qui Assicurazioni Generali, dopo aver acquistato 4 mesi fa l'immobile del comune di Trieste, insedieranno il loro Agora Innovation Hub, un luogo presentato al Convention Center dal CEO del gruppo Generali Donè, alla presenza di molti dipendenti e delle istituzioni, tra cui il ministro Matteo Salvini, dove Generali svilupperà progetti realizzati anche attraverso l'intelligenza artificiale, dove investiranno partner pubblici come la Regione, Friuli Venezia Giulia, ma anche privati, dalle Triestine Fincantieri a Illy Caffè, a grossi colossi americani come Google e Goldman Sachs. E a proposito di America, sul crollo delle borse causato dall'introduzione dei dazi, Salvini dal palco commenta: non sono i dazi americani a preoccuparci, ma i tanti lacci e lacciuoli che ci siamo auto imposti con eccesso di regolamentazione e burocrazia. Ma cosa sarà Palazzo Carciotti tra 3 anni al termine dell'imponente ristrutturazione? Lo abbiamo chiesto a Emma Ursic, responsabile dell'immagine del patrimonio artistico del gruppo Generali. Qui ci sarà un centro per la ricerca, per l'innovazione, per i talenti, per i giovani, dove mettiamo insieme un grande ecosistema di partner pubblici, accademici e privati che lavoreranno insieme per risolvere alcune delle grandi questioni che riguardano la vita delle persone e della comunità, dai trasporti alla salute, alla finanza, alla sicurezza, alla cyber security. Avete parlato di piazza delle idee, cosa vuol dire? Qui era la casa del signor Demetrio Carciotti, che era un mercante greco, e al piano terra c'era il fondaco, no? C'erano le merci, era un mercante di stoffe, e adesso questo sarà chiamato Agorai Innovation Hub, con l'idea che diventa una piazza non più di merci ma di idee e di conoscenza. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Comune di Trieste ha appena firmato l'avvio ai lavori del quarto cantiere di Porto Vivo con l'incarico alla società CNS di realizzare il parco lineare. Presenti all'incontro il sindaco di piazza, ma anche i delegati del Ministero della Cultura. La fine dei lavori, che cominceranno dalla parte di Barcola, è prevista a dicembre 2026. Il costo dell'operazione è di 23 milioni di euro. Incontro tecnico finanziario oggi in Regione a Udine sulle risorse erogate per municipi, regione e comunità di montagna dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono 905 i progetti in 206 municipi. Il punto sullo stato di attuazione. A un anno dalla scadenza del 2026, il 65% dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nei comuni del Friuli Venezia Giulia risulta concluso o in fase di collaudo, il 33% in fase di esecuzione, appena il 2% ancora in fase di progettazione o gara. A Udine, nella sede della Regione, l'assessorato alle finanze e i tecnici della Ragioneria Generale dello Stato hanno fatto il punto sulle risorse erogate per i municipi, per la Regione autonoma e le comunità di montagna. 860 milioni di euro per questi enti, sul totale dei 2 miliardi e 400 milioni di euro, ovvero il computo complessivo delle risorse destinate al Friuli Venezia Giulia, che include però anche il porto di Trieste, le università, le imprese private, ordini e fondazioni. Tornando ai comuni, sono 839 progetti per 207 municipi su 215. Sono già stati erogati 104 milioni di euro su 370, ovvero il 28%. La Regione ha messo a disposizione nell'ultimo biennio quasi 26 milioni di euro alle amministrazioni locali come anticipo per consentire di pagare lo stato di avanzamento lavori. Anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze anticipa il 30% dell'importo del PNRR e con i trasferimenti intermedi si arriva fino al 90% della somma. Le criticità per i piccoli comuni riguardano le difficoltà nel fare investimenti infrastrutturali, ovvero la maggior parte, in maniera spedita, mancate risposte sull'edilizia scolastica da parte del Ministero dell'Istruzione, oberato di richieste, e infine ritardi per mancanza di risorse umane nell'alimentare la piattaforma di monitoraggio con la documentazione necessaria. Serve ai tecnici della Ragioneria dello Stato per seguire lo stato di avanzamento lavori, così da erogare le somme necessarie. Anche per questo la Regione ha introdotto una task force di supporto. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Proseguono le trasmissioni organizzate dalla RAI in vista delle comunali del 13 e 14 aprile a Pordenone. Oggi verranno trasmessi i messaggi autogestiti realizzati dai soggetti politici in lizza. Appuntamento alle 13.15 circa su Rai 3 e alle 23.05 su Radio 1, diffusione regionale. Una notizia di cronaca: Trieste pochi giorni fa una pattuglia della polizia locale di Via Locchi, durante un controllo degli stalli di parcheggio riservati ai disabili, ha notato in Città Vecchia un veicolo in sosta che esponeva un tagliando semi nascosto. Da quel che si poteva scorgere si trattava di un contrassegno rilasciato dal comune di Muggia e scaduto nel 2024. Da una prima verifica con gli uffici competenti è risultato che l'intestataria, madre del proprietario del veicolo, era però deceduta. La polizia locale ha quindi attivato il carro attrezzi. In quel momento è arrivato l'uomo che aveva parcheggiato l'auto nello stallo per disabili, sostenendo che il documento non era della madre ma del padre e che il tagliando gli serviva per andarlo a trovare. Per l'uso improprio del contrassegno e la sosta illegittima ha ricevuto un verbale da quasi 500 euro con la decurtazione di 10 punti patente. Il tagliando, ricorda la polizia locale, ha il solo scopo di facilitare la mobilità di persone con patologie invalidanti e riconosciute da un'apposita commissione medica, non può essere da altri utilizzato per commissione a favore del titolare. Una rettifica agli uffici della sede centrale dell'ASFO a Pordenone in via della Vecchia Ceramica. Contrariamente a quanto detto stamani nella prima edizione del giornale radio, sono aperti oggi con i consueti orari al pubblico. La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ha assegnato un finanziamento di 5 anni alla dottoressa Michela Faleschini, ricercatrice del Burlo Garofalo di Trieste, per uno studio sull'anemia di Fanconi. Per il primo anno 56.000 euro a disposizione per esplorare un nuovo approccio terapeutico per questa malattia genetica che aumenta il rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro. E farà disonzo il comune più generoso del Friuli Venezia Giulia per la donazione degli organi. La percentuale di consensi è del 95,1% con 156 sì su 164 dichiarazioni registrate. Seguono San Pier di Sonzo e Forni di Sopra. E quanto emerge dal report del Centro Nazionale Trapianti, che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione, che vengono definite al momento momento del rinnovo delle carte d'identità. Il report è stato diffuso in vista della giornata nazionale della donazione degli organi, che sarà l'11 aprile. In generale, in Friuli Venezia Giulia nel 2024 sono state 83.000 le dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi, 69% di sì, 31% di no, 38% astenuti, al sesto posto in Italia per percentuale di consensi. La professoressa Caterina Petrillo è stata confermata alla guida di Area Science Park di Trieste per un secondo mandato come presidente di questo importante ente nazionale di ricerca, l'unico in Italia a fare da ponte con le imprese. L'abbiamo intervistata a Buongiorno Regione. Sentiamo. Caterina Petrillo, professoressa di fisica all'Università di Perugia, è stata riconfermata presidente di Area Science Park di Trieste per un secondo mandato di 4 anni. L'ente, che da 47 anni promuove innovazione e trasferimento tecnologico, ospita 64 realtà fra centri di ricerca, imprese e start-up, dando lavoro a oltre 2.800 persone. Un settore sul quale noi stiamo lavorando e che rafforzeremo anche in strettissima connessione con le linee prioritarie della strategia regionale è quello dell'idrogeno e delle energie sostenibili. Quindi in quel settore stiamo lavorando per realizzare delle infrastrutture tecnologiche legate alla produzione verde di energia, il che significa per noi un posizionamento a livello europeo, soprattutto per accedere a finanziamenti del nuovo programma quadro. Quindi le intenzioni sono rafforzamento, rilancio in alcune attività specifiche a supporto della regione, ovviamente del paese, ma con un finanziamento che guardi molto all'Europa. Un momento cruciale per l'ente, tra le sfide anche quella del bilancio di genere. Nell'ente lavorano più donne che uomini, ma la presenza di scienziate è ancora limitata. Credo che un problema classico sia quello del timore che le donne hanno di sbagliare. Cioè, il punto chiave, secondo me, è prevalentemente questo, cioè per come è l'educazione che le bambine e i bambini ricevono, le bambine sono abituate più o indirizzate più ad essere perfette, se mi passa la parola, sì, piuttosto che accettare il rischio di un errore. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. 12:47 minuti, uno sguardo al meteo. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, da nuvoloso a coperto in montagna, le temperature delle 11. A Trieste 10 gradi, a Gorizia 13, a Udine e Pordenone 12 gradi. A Tarvisio e a Tolmezzo 8 gradi, a Forni di Sopra 4, a Sappada 3 gradi, sul Piancavallo 2 gradi. Su Monte Lussari e Monte Zoncolan meno 2 gradi, sulla costa grado 11 gradi, Lignano 12. E queste sono le previsioni per oggi pomeriggio. Cielo variabile sulle Prealpi Giulie, bassa probabilità di qualche locale debole pioggia nel pomeriggio, con quota neve a 1200-1400 metri. Per domani al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, con possibili locali gelate anche in pianura, oltre che sulla zona montana. Dal pomeriggio probabile aumento della nuvolosità a partire dalla zona montana. La realtà museale di Trieste offre un ampio spaccato sulla storia complessa della città, ma dovrebbe offrire al visitatore un racconto più unitario. È quello che sostiene Giovanni Carrada, autore di storici programmi televisivi come Super Quark, che su questo tema ha scritto un saggio. Trieste, città di confine, crocevia di culture, protagonista di una storia complessa e divisiva, tutti elementi fondanti che non vengono valorizzati in modo unitario dai suoi musei, che pure offrono molte prospettive sul suo passato, ricchi di reperti e di testimonianze storiche. Il risultato? Un'offerta culturale di ottimo livello, ma frammentata, non in grado di comunicare e valorizzare la vera essenza della città. Ne è convinto Giovanni Carrada, che ha scritto il saggio Perché non parli? Come raccontare il patrimonio culturale. Autore di programmi televisivi, tra cui quelli di Piero e Alberto Angela, Carrada sottolinea il nodo del mancato racconto unificato della città. Ogni comunità ha il suo museo, che racconta un pezzo della storia della città, un aspetto della storia della città, ma manca un luogo in cui si uniscono tutti questi puntini. A me ha colpito moltissimo scoprire in uno dei musei triestini che un quarto delle deportazioni delle vittime civili della Seconda Guerra Mondiale in Italia è stato concentrato proprio a Trieste, nella zona intorno a Trieste. Carrada suggerisce due soluzioni. Ci dovrebbe essere un museo di Trieste. Io, se potessi, riunirei le collezioni delle varie istituzioni triestine e le userei per raccontare, attraverso il patrimonio culturale che la storia ci ha lasciato, una storia condivisa di questa città. Però, per esempio, anche pensare di organizzare una volta una grande mostra che resti aperta per almeno 6 mesi, che racconti questa storia condivisa. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. Restituire al parco un aspetto curato e sicuro, rendendolo più fruibile ed esteticamente gradevole anche per incontri culturali. È l'obiettivo dei lavori di riqualificazione e rigenerazione che riguardano parte del giardino settecentesco di Villa di Toppo Florio a Putrio, finanziati con 50.000 euro dalla Regione. L'intervento, che si concluderà a fine maggio, prevede il taglio di piante morte, la potatura e il risanamento di alcuni alberi, oltre allo sradicamento di specie infestanti, la messa a dimora di nuove piante in varie zone del parco. Nel parco sono in corso anche altri lavori, come la pulizia di uno dei due laghetti, la sostituzione della staccionata di protezione, il ripristino di parte dei camminamenti e la posa di cartelloni a scopo divulgativo. Consegnate ieri sera a Gradisca di Sonzo, presente la vicepresidente del CONI nazionale Claudia Giordani, oltre 100 benemerenze CONI ad atleti, dirigenti e associazioni del Friuli Venezia Giulia per l'attività sportiva. Appuntamento che è coinciso con l'ultima uscita pubblica del presidente regionale del CONI, Giorgio Brandolin, che lascia l'istituzione sportiva dopo 3 mandati. Sentiamolo in questa intervista. Giorgio Brandolin, lei lascia il CONI dopo 3 mandati. In che stato di salute è lo sport del Friuli Venezia Giulia? Beh, con orgoglio ma anche con grande convinzione penso di poter dire che è uno stato di salute buono. Non posso dire ottimo, ma buono. Per i grandi risultati che alcune nostre società di vertice stanno ottenendo sia nello sport femminile che in quello maschile, ma anche e soprattutto perché il tessuto associativo ha tenuto. È aumentata la cultura sportiva in questa regione? Da decenni, ma in questo ultimo periodo in particolare tutte le famiglie, in particolare la scuola, hanno capito quanto è importante sia fare sport. Lo stato dell'impiantistica sportiva in Friuli Venezia Giulia qual è? Molto buono, dico a questo punto. Abbiamo delle problematiche a Trieste perché è una città che ha fatto prima di altri territori sport e quindi ha degli impianti obsoleti da ristrutturare, questo costa molto. Ma da Monfalcone verso tutto il Friuli non c'è paese che non abbia una struttura coperta. Friuli Venezia Giulia, rispetto alla popolazione, è la regione che ha portato più atleti alle Olimpiadi estive. Non è la prima volta, è una costanza in queste ultime 4-5 Olimpiadi che io ho seguito, a dimostrazione proprio di quella cultura sportiva che ormai è permeata in tutte le famiglie e in tutte le istituzioni di questa nostra piccola grande regione. Gradisca di Sonzo, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Marco Ferrito e Walter Vidonis. In redazione ha collaborato Daniela Sossi. L'informazione radiofonica torna su queste frequenze alle 15, il telegiornale invece alle 14 sul terzo canale televisivo. Da Dario Ronzoni e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.